Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dalla Cina al resto del mondo, l'esplosione del nuovo coronavirus ha creato una situazione di allerta non solo per la salute, ma anche per l'economia globale. Sono molti, infatti, i settori produttivi che stanno risentendo dell'attuale crisi. Fra questi, anche il comparto dell'automotive e il mercato dei veicoli industriali. A lanciare l'allarme in Italia sono state le associazioni dei costruttori che, di fronte agli eventi che hanno colpito anche il nostro paese, hanno espresso il timore di un blocco produttivo. A tutto questo si aggiunge poi la stretta dipendenza da vettori e conducenti stranieri. Le misure per contenere il contagio, infatti, hanno reso più difficile anche il trasporto delle merci. Situazioni che esasperano un comparto già colpito da un calo progressivo delle immatricolazioni. Come agire, quindi, per limitare il più possibile l'impatto di quello che sta accadendo? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un mondo che è colpito profondamente dall'emergenza coronavirus di queste ultime settimane, tant'è vero che proprio questa settimana ci sono stati diversi incontri fra il governo, il Ministero dei Trasporti e tutti i ministeri interessati e le associazioni di categoria dell'autotrasporto, proprio per cercare di fare un po' il punto della situazione ed evitare che possano esserci problemi di approvvigionamento delle merci in Italia, soprattutto in un momento così delicato. Un grido d'allarme che arriva anche dalle associazioni dei costruttori, da Unrae, Anfia, da Federauto, l'associazione dei concessionari, per evitare che tutto questo si rifletta in maniera pesante su un mercato che, tra l'altro, non sta vivendo certamente uno dei suoi periodi migliori. E allora di tutto questo parliamo oggi in compagnia del nostro ospiti. Vi presento il primo, Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo con il raccontare gli incontri che ci sono stati questa settimana. Un primo incontro con la ministra De Micheli lunedì, un successivo incontro mercoledì alla presenza anche della Protezione Civile. Di che cosa si è parlato in questi incontri? Incontri di una settimana molto intensa sono serviti un po' per iniziare ad analizzare e capire come gestire l'emergenza coronavirus che si sta riverberando con tutti i suoi effetti devastanti sul mondo delle imprese che rappresentiamo, le imprese di trasporto e logistica che per definizione sono imprese che vivono di mobilità, che consentono al paese di fare PIL, di muovere l'economia. Il ministro ha avuto la sensibilità di convocarci proprio per sentire le nostre esigenze e capire un po' quali misure adottare nei provvedimenti legislativi urgenti di questi giorni, di cui abbiamo già visto i contenuti. Un po' quello che potesse andare incontro alle nostre imprese per far fronte alla mancanza di lavoro, di approvvigionamento di materie, di impossibilità di raggiungere i siti produttivi, di compiere la distribuzione urbana e le linee che poi svolgono i nostri autotrasportatori. Ecco, tutto questo sta succedendo, chiedo scusa Lomonte, solo nella cosiddetta zona rossa o è un problema che riguarda un po' tutto il sistema trasporto nel paese? Purtroppo abbiamo dovuto constatare che la zona rossa che è stata circoscritta appunto con questa definizione è ormai ascrivibile ad una zona ben più ampia, proprio perché le imprese di autotrasporto di cui stiamo in questo momento parlando, ma possiamo anche allargarci al macro settore dei trasporti, al trasporto delle persone, al trasporto marittimo, è sostanzialmente paralizzato, vuoi perché rispetto alle merci dei container cinesi che devono arrivare nei porti e poi devono essere smistati, vuoi sul trasporto ferroviario, vuoi sul trasporto stradale, c'è un sostanziale blocco che riguarda diverse aree del paese. Un grido d'allarme che è stato lanciato anche dai costruttori, come dicevamo prima, e allora vi presento anche il secondo ospite che è Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. Buongiorno, grazie anche a lei di essere qui con noi. Perché voi siete particolarmente preoccupati? Ricordo a tutti perché se per caso mai avessimo dei problemi così gravi, il trasporto si fermasse, in 5 giorni il paese sarebbe in ginocchio, quindi ci sarebbe un grave allarme da un punto di vista di questo coronavirus e ci sarebbe anche un problema di reperimento delle merci. L'86% delle merci gira su un veicolo industriale. Ecco, e la cosa grave, oltre a questa, diciamo per così dire, umana, di cui bisogna tenerne conto, c'è anche quella economica. C'è stato un grandissimo problema dal 2008 fino ai giorni nostri, dove 35.000 imprese hanno chiuso e il settore ha perso 130.000 occupati. Ecco, con questo tipo di momento il mercato, che già ha chiuso un meno 7,6% l'anno scorso, sta scendendo definitivamente, quindi abbiamo molte aziende in crisi. Non capisco come facciano a reggere i nostri clienti, i trasportatori, che chiaramente stanno vedendo un momento dove credo che bisogna fare qualcosa di più che non fare un piccolo provvedimento, ma fare cose molto importanti, tenendo presente che questo settore è di fondamentale importanza sia per il trasporto, ma come si diceva prima, anche per il PIL del nostro paese. Certo, ma anche per il semplice approvvigionamento, come ricordava lei, l'86% delle merci viaggia su gomma, quindi tutto ciò che trovate nei supermercati, tanto per fare un esempio classico, è stato trasportato lì da un veicolo pesante, quindi dobbiamo fare in modo che questi veicoli continuino a girare. Lomonte, il presidente Fenoglio ci parlava dell'impatto devastante sulle imprese e tra un po' le chiederò anche qual è questo impatto, se lo avete già valutato in qualche modo. Però dicevamo prima, nel corso di questa settimana c'è stato anche un ulteriore incontro mercoledì con la Protezione Civile. Com'è andata? Sì, raccogliendo un po' le nostre esigenze, la ministra De Micheli ha attivato immediatamente un tavolo in seno al Dipartimento della Protezione Civile con appunto esperti anche del Ministero dei Trasporti e le confederazioni più rappresentative del settore, per coordinare con un'unica regia centrale un po' di procedure operative, ecco, utili alla definizione di linee guida per il nostro settore, perché oggi stiamo registrando in tante parti d'Italia, proprio perché siamo un settore ad altissima mobilità, l'impossibilità di avere delle regole chiare, uniformi e precise da far seguire ai nostri autisti e talvolta alle nostre imprese. Parlo di, per esempio, dotazione dei dispositivi di protezione individuale, piuttosto che richieste dei committenti o ancora ordinanze sconnesse tra loro delle varie autorità pubbliche locali, immagino le prefetture, piuttosto che i beni ancora non ben identificati e individuati dai vari DPCM e decreti legge. Ecco, grazie a questo incontro si è cercato di fare un po' il punto della situazione, affinché in maniera coordinata dal centro, grazie all'esperienza della Protezione Civile, si riuscisse a definire un quadro chiaro di regole, un manuale d'uso, come l'abbiamo chiamato noi, che possa essere prontamente emanato nelle prossime settimane, così che si possa diffondere, uniformare anche nazionale L'atteggiamento, certo, e probabilmente far sì che venga meno quel timore, quella paura che ha bloccato, esatto, addirittura qualche giorno fa alcuni autotrasportatori ai confini, per la paura, appunto, poi una volta entrati in Italia, di dover ritornare nel loro paese ed essere messi addirittura in quarantena. Una battuta veloce, Lomonte, invece, sull'impatto economico sulle imprese. Rispetto all'impatto, noi abbiamo calcolato nei diversi settori, appunto, di cui si compone la nostra rappresentanza, trasporto stradale, trasporto persone e altre tipologie, un calo, un crollo, addirittura con dei picchi che vanno dal 60-70% nelle zone più interessate del Veneto e della Lombardia, per finire ad un calo generalizzato medio del 25% del crollo del fatturato già solo nel primo trimestre rispetto al trimestre dell'anno precedente. Fenoglio, il settore dell'automotive è uno dei più colpiti in tutto il mondo, in Europa soprattutto, in particolare da quello che sta succedendo. Ci sono proprio delle problematiche anche di approvvigionamento delle fabbriche, alcune case costruttrici hanno deciso di chiudere, si sta ragionando in Italia su alcuni provvedimenti che riguardano il mondo automobile, quindi i veicoli leggeri, per la sostituzione del parco. Qual è la situazione invece sul fronte dei veicoli industriali? Direi che più o meno siamo nella stessa situazione, ma quello che io vorrei anche dire, che con quattro numeri vorrei dire un po' la situazione attuale. Negli ultimi anni praticamente il settore del trasporto in Italia ha perso 130.000 veicoli industriali di potenzialità. Il paese italiano, che era fra i primi d'Europa per quanto riguardava la logistica, è passato al sesto posto. E voglio ricordare una cosa: già facciamo una grande battaglia sulla sostenibilità, che sembra quasi dimenticata, ma continuiamo ad avere il parco circolante più vecchio che esiste in Europa, e quindi prima o poi dovremo prendere atto di questa situazione. Naturalmente il rallentamento dell'economia così potente e grave andrà a incidere anche su questo tema, che vedremo ancora per una volta arrivare ad essere un paese che ha un parco circolante molto vecchio e che faremo molta fatica a sostituirlo. Ecco, quello che io voglio lanciare come grido al Ministro: noi abbiamo chiesto come Federauto, come Anfia e Murae, un incontro col Ministro per mettere in evidenza il settore e il nostro problema che abbiamo, perché andando avanti di questo passo migliaia e migliaia di persone andranno a non più essere occupate e avremo un grande problema. Sappiamo che il settore automotive è un settore ad altissima occupazione, insieme al trasporto e quindi agli autisti e tutto l'indotto. Ecco, il continuare sempre a parlarne solo quando andiamo nei continui disastri è veramente grave. Credo, lo dico al Ministro, che devono prendere atto che questo settore è fondamentale e determinante per la riuscita di qualunque altro settore, è il settore di tutti i settori. Se noi non abbiamo un trasporto competitivo, non abbiamo un paese forte, anche sulle aziende manifatturiere non saranno competitive nel mondo. Bene, allora noi ovviamente continueremo a seguire con attenzione anche l'evoluzione di questa situazione nel settore dei trasporti. Intanto salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti, Sergio Lomonte, segretario generale di Confartigianato Trasporti, Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasporti.